c'è dentro te la voglia di partire, ma non è facile mollare tutto. E allora dai, unisciti al mio canto, coraggio, fidati di me. E allora sali, vivo nel mio treno solitario, e non ho voglia di andare solo. Prendi il treno, c'è il buio in te, ti senti di impazzire, lo so, ma non è facile cambiare il mondo. E allora dai, comincia il tuo cammino, senza partire mai in me. Ci sono spazi, un sottile immenso sconfinato, dove nessuno arriva e niente torna indietro. Che cosa scegli? Venite col coltello sulla schiena. Vuoi una risposta oppure un grido nel deserto? Su.